25 aprile 2020, Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate, da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Benvenuti alla quinta e ultima puntata della maratona di lettura di La carezza e la mitraglia. Oggi è il 25 aprile, la fine del 25 aprile, la fine di questo romanzo. Il riassunto delle puntate precedenti è affidato all'autore, Massimiliano Gollini. La carezza e la mitraglia. Riassunto. Un uomo torna dalla guerra. Arriva alla stazione dei treni e a stento riconosce la sua città. Con sé non porta nulla, tranne i suoi ricordi e una promessa che ancora non conosciamo. Aprile 1945. Anima è appostata per uccidere Walter Reder, comandante SS responsabile delle stragi di Montesole. Il piano di fuga del tedesco si sta compiendo. Le camionette da guerra sono state trasformate in automezzi civili e i nazisti sono pronti a scappare. Sono quasi le 18. L'ora di uccidere Reder sta arrivando. Anima ha una lettera in tasca. Una lettera arrivata mesi prima, una lettera che non ha mai letto. È ormai giunto il momento di aprirla. Elena Beltrami combatte. Le azioni partigiane si susseguono. Uccide i tedeschi con il suo fucile, un vecchio carcano. Al termine di una battaglia, durante la quale salva diversi civili, Elena fa amicizia con Anita, una ragazza contadina. Quando può, va a trovarla e si affeziona a lei e alla sua famiglia e tenta di proteggerla. Nel frattempo, la situazione militare sul territorio peggiora. Sono in arrivo forze tedesche in fuga dopo l'insurrezione di Firenze. Si tratta di un battaglione di SS al cui comando c'è un graduato con un braccio solo, Walter Reder. Mentre il comando della Brigata Stella Rossa, in contatto con le forze alleate, è sicuro che presto Bologna insorgerà, il branco teme l'arrivo delle SS in quel territorio montano. Il branco, di cui Elena fa parte, è formato da specialisti militari esperti. Elena avverte Anita, ma non può fare molto di più. La situazione presto sfugge di mano. La carezza e la mitraglia. Legge Emilio Ricciardi. Settembre 1944, giovedì, Elena. Piove tutta la notte, ma i partigiani non se ne accorsero, almeno non fino all'alba. Avevano passato la sera a festeggiare, a ballare e mangiare, a bere il vino che un tizio di Catidurino aveva trasportato fin lì con l'aiuto di un mulo. Il comando della Stella Rossa al completo, le loro fidanzate, qualche amico sceso dalle montagne e parte del branco, come se la guerra se ne fosse andata. Poi però venne il giorno, e con il giorno la guerra tornò. Si erano salvati tutti dalla disavventura al campo di Sperticano. Elena aveva raggiunto la Tezzola solo dopo essersi assicurata che nessuno la seguisse. Dopo la morte dei due soldati mongoli, nessun tedesco mediamente addestrato avrebbe mai potuto starle dietro. L'orientamento in quei boschi era una cosa complessa e il fatto che gli alberi fossero ancora rigogliosi di foglie non aiutava i crucchi. Bisognava conoscerli, quei luoghi, sentirli dentro. Arrivò per ultima sentendosi stranamente in ritardo. Misha aveva una ferita superficiale a un fianco, mentre mezzanotte aveva riportato una botta in testa così forte che un bernoccolo gli era spuntato proprio in mezzo alla fronte. Quando la videro, si alzarono e l'abbracciarono. Poi Orso si prese cura del graffio che lei aveva sul braccio. Passarono quella prima giornata senza parlare molto, cercando di riprendersi da una missione che agli occhi di tutti sembrava fallita. Nessuno lo disse, ma per la prima volta erano stati sconfitti. Avevano portato a casa la pelle solo grazie alla loro organizzazione e a una buona dose di fortuna. In compenso avevano visto, e quello che avevano visto andava raccontato. Aspettarono un paio di giorni, poi si divisero nuovamente. Ghiaccio si portò dietro Orso e andò da Lupo. Scelse Orso perché voleva rimanere nel bosco, tenersi alla larga dai centri abitati e dalle strade frequentate. Restarono lontano per 3 giorni, durante i quali fu Misha a comandare. Il russo aveva stabilito turni di guardia giorno e notte e il divieto assoluto di lasciare Tezzola. Quelle ore passarono in un clima incerto, fatto di sguardi furtivi e sospiri d'ansia. Tornarono all'alba del quarto giorno, portando solo l'invito a una festa. Nonostante il racconto dettagliato, Ghiaccio riferì che il comando non era preoccupato. Non stavano sottovalutando la situazione, solo erano convinti che la guerra fosse già finita. Certo, non l'avrebbero mai detto ad alta voce, ma lo capivi anche solo a guardarli. Il 28 settembre, il comandante Mario Musolesi, detto Lupo, suo fratello Gianni e il cugino Otello si sarebbero trovati a Cadotto per festeggiare l'avanzata alleata, la sconfitta dei tedeschi al passo del Giogo e la chiusura del cerchio attorno alla Wehrmacht. Il fatto che fossero arrivate le SS era un dettaglio. Molti uomini della Stella Rossa si erano già spostati in città, e Bologna sarebbe insorta di lì a qualche giorno. Dopo averne parlato, il branco decise di raggiungere Lupo a Cadotto. Non c'era motivo per non farlo. Una sera senza pensieri, mangiando qualcosa di caldo e ascoltando canzoni da ballo, avrebbe giovato a tutti. Però Ghiaccio impose un livello di attenzione alto, che il branco accettò senza riserve. Lui, Miscia ed Elena avrebbero partecipato alla festa, gli altri tre si sarebbero sistemati nel bosco in tre punti diversi. Se la Stella Rossa aveva deciso di abbassare la guardia, anche solo per una notte, il branco avrebbe vigilato anche lei. Quando iniziò a piovere, stavano ballando al suono di una fisarmonica. Qualcuno aveva lavorato tutto il giorno per dare una ripulita a una stalla. Era stato portato fuori il letame e tolto il fieno mentre gli animali erano rinchiusi in un recinto all'aperto. Solo tre vacche molto vecchie erano rimaste al coperto, un po' per non esporle al freddo, un po' per riscaldare l'ambiente. Elena accettò l'invito di un ragazzo sui 20 anni, timido e con un sorriso di denti neri e storti che la prese per mano e la portò al centro della stanza. Nessuno dei due sapeva ballare, ma in quegli anni si era distratta poco e in quel momento si accorse di averne bisogno. Era come se avesse messo la testa fuori dal guscio dopo una vita intera. Aveva provato quella stessa sensazione mesi prima, quando si era arrampicata per la prima volta sul pino e aveva visto i boschi dall'alto. Aveva toccato il cielo, sfiorato le nuvole con una mano. Poi la sera finì. I tre musolesi uscirono dalla stalla portandosi dietro le fidanzate, mentre Ghiaccio e Miscia si coricarono approfittando di un cumulo di fieno rimasto in un angolo. Tutti tornarono da dove erano venuti, anche i più ubriachi. Quando la stalla tornò a essere quella di sempre, il ragazzo con il quale aveva ballato si avvicinò e tentò di baciarla, ma lo fece con un movimento goffo. Le poggiò una mano sulla spalla e chiuse gli occhi troppo presto, sbagliando la traiettoria e finendo per baciare l'aria accanto al suo orecchio. Elena fece un risolino appena accennato, poi prese il mento e chiese: «Hai mai baciato una ragazza?» Diventò così rosso che il viso sembrò sul punto di esplodere. Lei si avvicinò e appoggiò le labbra sulle sue senza andare oltre. Poi si staccò e tornò a guardarlo da una distanza di sicurezza. «Mi spiace, ma non si può fare», gli disse sorridendo. Dopo che anche il ragazzo se ne fu andato, Elena dormì qualche ora. Un sonno profondo, senza sogni. Si svegliò all'alba, ma non vide la luce del giorno perché il cielo era coperto di nuvole cariche di pioggia. Andò nella rimessa a prendere il carcano. Coprì la canna con una pezza, se lo caricò in spalla e raggiunse la postazione di ultimo. Fischiò tre volte per farsi riconoscere. Quando il compagno rispose, si arrampicò e diede un'occhiata al paesaggio. I campi sparivano dietro un sipario grigio e umido, in lento movimento, e la pioggia era così fitta che sfumava i contorni delle cose. È andata bene, ultimo. Un tizio ha cercato di baciarmi. Grande! Era un ragazzo con i denti tutti storti. Prendi sempre il meglio, tu, l'hai detto. Com'è la situazione? Tutto tranquillo, non si vede niente. Hai notizie da Orso e mezzanotte? Senza rispondere, ultimo raccolse le mani attorno alla bocca e imitò il richiamo di un gufo. Poco dopo, altri due gufi risposero, uno a est e l'altro a ovest. Il ragazzo la guardò e disse: «Gufo bene, lupo male». «Perfetto allora», commentò lei. «Non hai freddo?» Lui scrollò le spalle. Aveva i vestiti completamente bagnati ed Elena capì di aver fatto una domanda stupida. Si tolse il fucile dalle spalle e lo appoggiò sulle ginocchia. «Ho sentito la musica tutta la notte, mi hai fatto compagnia». «Sei un bravo ragazzo, ultimo, dico davvero». «Sono un principe, ma nessuno lo sa». Il giorno arrivò e le nuvole basse che bloccavano la vista si alzarono, mettendo in mostra una parte della valle. Elena appoggiò la schiena a un ramo e guardò il paesaggio prendere forma. Era bello stare lì in silenzio, percepire la pioggia sui campi, guardare nascere il giorno. Le dava un senso di pace che la portava lontano dalla realtà. Fu per questo che impiegò qualche istante prima di capire cosa stava accadendo in fondo alla valle. Le sembrò un sogno. Si girò verso Ultimo ed ebbe l'impressione che anche lui stesse avendo la stessa visione. Poi però arrivò il richiamo, un ululato continuo, poi interrotto, poi ancora ripreso, un verso straziante che avrebbe risvegliato un morto. Arrivò dai boschi, portato dalla pioggia, e si abbatté su di loro, inesorabile. I soldati comparvero dalla nebbia senza farsi sentire, e più passavano i minuti, più aumentavano di numero. Non procedevano in formazione, sembravano piuttosto cacciatori sparpagliati nei campi in cerca di prede facili. All'inizio ne vide solo qualcuno, poi divennero decine. Ovunque guardasse, Elena vide tedeschi con i fucili mitragliatori in mano e il capo chino sotto quella pioggia di settembre. Erano una marea, il lento avvicinamento. Quando arrivarono alla stalla, Ghiaccio e Miscia erano già in piedi mentre Orso stava distribuendo le armi prese dalla rimessa. Non avevano avuto il tempo di accordarsi, ma ormai combattevano come se fossero un'unica persona. Senza dire niente, uscirono e si diressero verso il casolare. Svegliarono i partigiani e le loro compagne, scuotendoli con forza. Bastò uno sguardo per far capire a tutti qual era la situazione. Nel silenzio più assoluto, Elena selezionò due giovani guerriglieri e con un cenno diede l'ordine di prendere i fucili e seguirla. Indicò loro di appoggiarsi nelle stanze all'ultimo piano, uno sul lato est, l'altro sul lato ovest della casa. Si raccomandò di non sparare prima di aver sentito sparare lei, ma dai loro sguardi si accorse che non la stavano ascoltando. Erano impreparati ad affrontare quella situazione, perciò afferrò il carcano dalla canna e li colpì alle cosce, facendoli indietreggiare. Protestarono, ma finalmente i loro visi presero vita. Raggiunse la stanza centrale che dava sull'aia e sistemò accanto a sé lo zaino con i caricatori. Aprì la finestra e trovò la posizione migliore, appoggiando i gomiti sul piccolo davanzale. Aveva un raggio di tiro formidabile e una protezione che le avrebbe garantito la massima sicurezza possibile. Cercò di valutare la situazione con calma. La sera prima aveva contato 20 partigiani. Alcuni però erano tornati sui monti e gli altri avevano bevuto così tanto che adesso non potevano certo essere nelle condizioni migliori. Si era fatta l'idea che fossero al massimo una dozzina di guerriglieri, insufficienti per far fronte a quell'attacco. Guardò la valle e il fiato le si bloccò nei polmoni. Saranno stati almeno 200 soldati. Avevano già raggiunto la stalla proprio di fronte a lei, mentre ai lati stavano uscendo dal bosco. Di lì a qualche minuto sarebbero arrivati al casolare. Erano concentrati nel camminare sotto la pioggia senza scivolare e senza finire in una pozza d'acqua troppo profonda. Erano sicuri di quello che stavano facendo e non prevedevano sorprese. C'era un gruppo di soldati che sembrava camminare compatto. Riconobbe tra loro il graduato alto e grosso e accanto a lui il ciccione italiano che aveva già visto in casa da Anita. Anche in quel momento teneva in braccio il suo cagnolino. Camminava a fatica nel fango e sembrava veramente a disagio. «Maledetto bastardo, figlio di puttana!» sussurrò. Poi lo inquadrò nel mirino. Qualsiasi cosa fosse successa, quel traditore collaborazionista sarebbe morto per primo. Cercò di controllare il respiro. Ogni cosa era avvolta da un silenzio assoluto. Il momento esatto che precede la battaglia, davanti i tedeschi, e alle spalle una terra da liberare. In mezzo lei, ragazza di città rubata la vita, aggrappata con forza al fucile, con i ricordi ad aspettarla. chiuse gli occhi e aspettò. Nel buio vide il volto di Odino. Come sempre sorrideva, ma questa volta gli occhi erano seri e si spostavano da lei a qualcosa che doveva trovarsi dietro le sue spalle. Era entrata in contatto con Odino, ovunque fosse, solo con la forza del pensiero. Poi il ragazzo parlò. La voce non le arrivò, ma riuscì ugualmente a leggere il movimento delle labbra. Si girò verso la finestra e calcolò a quale distanza si trovasse Cerpiano. Fu Ghiaccio a lanciare il segnale e lei aprì il fuoco per prima. Il ciccione cadde con un foro proprio al centro della fronte. Il tonfo nel fango fu così forte che le parve che si fosse scavato la fossa da solo. Vide il cagnolino guardarsi attorno indeciso, poi correre via scodinzolando. Lo sparo provocò un effetto domino che coinvolse anche i soldati più lontani, che si gettarono a terra uno dopo l'altro. Elena sparò ancora, e insieme a lei tutti i partigiani. Cercò di inquadrare il graduato, ma non lo trovò. Guardò verso sinistra, poi a destra, oltre la stalla. Vide uscire dal bosco una camionetta che trascinava uno dei cannoni visti a Sperticano. Non ebbe il tempo di preoccuparsi. Aspettò che il cannone fosse posizionato, poi prese di mira i soldati che lo attorniavano. Colpì il tedesco che lo stava armando, poi l'addetto al puntamento, infine l'autista del mezzo. Altri soldati si avvicinarono e lei li colpì tutti, senza sbagliare mai un colpo. Ricaricò il fucile più volte, senza pensare, con gesti meccanici. I tedeschi risposero al fuoco, visto come si erano mossi dopo il suo primo sparo, disposti in maniera così disordinata. Elena si convinse che li avevano colti di sorpresa. Forse non si aspettavano una resistenza di quel tipo, e questo le fece sorgere il dubbio che non fossero lì per loro. Cercò di scacciare quel pensiero terribile che da giorni ronzava in testa, ma non ci riuscì. Da quando aveva sentito parlare il graduato nella cucina di Anita, si era convinta che le SS cercassero i civili. Non erano lì per i partigiani. Quasi 2 anni di guerriglia avevano insegnato ai soldati della Wehrmacht che i partigiani non potevano essere sconfitti con azioni di guerra ordinarie. Erano radicati nei boschi e conoscevano bene la loro terra, ma avevano un punto debole e i tedeschi l'avevano scoperto. La Stella Rossa dipendeva dal territorio che difendeva. Senza il supporto dei contadini, senza i viveri, presi con le buone o con le cattive, senza il loro appoggio, non sarebbero sopravvissuti a lungo. I tedeschi lo avevano capito, e ora che disponevano delle SS di Reder, avevano deciso di muoversi. «Vacca boia, vacca boia, vacca boia, vacca boia!» urlò. Tenendo d'occhio il cannone, iniziò a colpire i soldati che si stavano avvicinando alla casa. Avevano formato un semicerchio molto ampio, ma dalla sua postazione poteva vedere il loro movimento. Sganciò il caricatore, ne prese un altro dallo zaino e lo infilò nel fucile. Poi si rivolse ai compagni nelle stanze accanto. «Non fateli avvicinare per nessun motivo!» Sentì un colpo sordo, poi un fischio che durò solo un attimo, terminato con un boato che fece tremare tutta la casa. Guardò alla sua destra e si accorse che il cannone era stato ricaricato. Elena riusciva a prendere di mira gli uomini impegnati sull'artiglieria pesante, solo sporgendosi dalla finestra, ma adesso i tedeschi erano troppo vicini per correre quel rischio. Così prese lo zaino, corse nella camera accanto e per poco non inciampò nel corpo di un compagno. Era ferito al collo ed era steso a terra in un lago di sangue. Si accorse della voragine che si era aperta tra il muro e il pavimento e capì che un altro colpo avrebbe fatto crollare quel lato della casa. Prese per una mano il partigiano caduto e lo trascinò indietro, poi corse dall'altra parte, appoggiò la schiena contro un armadio e con tutta la forza che aveva lo spinse davanti alla sinistra, lasciando libera solo la metà. Si stese accanto al muro crollato e iniziò a sparare contro i soldati vicino al cannone. Ne colpì 3. Ma ogni volta che uno cadeva, altri 2 prendevano il suo posto. Era una battaglia impari, ma ma poteva soltanto continuare a sparare. I proiettili arrivavano da sinistra e le passavano così vicino che ne sentiva lo spostamento d'aria. A tenerla sotto tiro era qualcuno posizionato sul tetto della rimessa, dall'altra parte dell'aia. Rotolò sulla schiena e si accovacciò in un angolo. Arrivò il frastuono di un'esplosione più violenta delle altre e pensò che l'intero edificio crollasse, ma accadde soltanto che gli spari cessarono per qualche istante. Guardò il cannone e lo vide distrutto. Ultimo, aveva sfruttato il suo fuoco di copertura per lanciare una granata contro la postazione tedesca. Elena tornò nella sua stanza, strisciando. Sperò che il cecchino non l'avesse vista. Ma quando tentò di raggiungere la finestra, un proiettile la colpì a un fianco facendola rimbalzare contro una parete. Non sentì dolore, ma si sentì confusa. Si sdraiò a terra per non essere vista e sollevò prima la giubba, poi il maglione e infine la camicetta. La pallottola era entrata nella carne poco sopra l'anca, squarciando pelle e muscoli per quasi 5 centimetri. Mancando però organi interni e ossa. La ferita sanguinava, ma non sembrava grave. Tolse il giaccone e strappò la camicetta nella parte bassa, ricavando una striscia di stoffa che si legò attorno alla vita. Poi si rivestì e strisciò fino alla finestra. Sentì gli spari e le urla arrivare dal basso e i compagni che nelle stanze accanto facevano fuoco senza sosta. Erano riprese anche le esplosioni ed Elena intuì che fossero le granate di ultimo. Appoggiò il fucile contro il muro alla sinistra della finestra ed estrasse la pistola. Non poteva sporgersi, perché il cecchino l'avrebbe colpita, ma poteva usare la sua Walther esponendo solo la mano, e così fece. Puntò l'arma e svuotò il caricatore, poi afferrò il carcano e si alzò in piedi. Il tedesco era vivo, ma si era riparato dietro un camino per non farsi colpire dalla raffica. Aveva sparato la cieca ed era stata fortunata. Aspettò che il crocco si muovesse e lo colpì alla testa. Si affacciò alla finestra per guardarsi intorno e si convinse che ciò fosse modo di fermare i tedeschi. Presto o tardi le munizioni sarebbero finite e avrebbero dovuto arrendersi o morire. Si appoggiò a una parete e prese lo zaino che aveva lì accanto. Erano rimasti 4 caricatori. Cercò di controllare il respiro. Sentiva le mani tremare, così le infilò tra le cosce. Ripensò a Udino e al pericolo che con tutta probabilità stava correndo Anita. Aveva fatto una promessa, ma non riusciva a immaginare un modo per mantenerla. Qualche istante dopo entrò ghiaccio. «Adesso stammi a sentire», disse lui accucciandosi lì vicino. «Lascia qui il carcano e prendi con te solo la pistola e le munizioni necessarie. Sul retro la collina è vicina. Se ti butti dalla finestra, hai un salto di 3 metri al massimo». «Sei pazzo?» chiese. Lui però non la stava ascoltando. Dovrai correre e dovrai essere veloce. Se sali in linea retta ai 50 metri allo scoperto, poi c'è il bosco. Con questa pioggia e il casino che stiamo facendo potresti anche farcela. Ghiaccio, ma cosa stai dicendo? Io non vi lascio. Continua a correre tenendoti da questa parte della montagna. Ci hanno accerchiato e ci controllano con pochi soldati. Abbiamo visto contingenti ripartire. Devi raggiungere Montesole. Io non vado da nessuna parte. Devi avvertire i compagni che si sono ritirati lassù e dir loro di riprendere le armi e iniziare a scendere. Voglio che arrivi dove ci sono i civili e che dica a tutti quelli che incontri di scappare. Ma ghiaccio, io non... Lupo è morto e questi sono i miei ordini. Sentì il mondo crollare a pezzi ed ebbe la sensazione di non avere punti di appoggio. La testa iniziò a girare e dovette aggrapparsi alla spalla di ghiaccio per non scivolare in avanti. Si accorse in quel momento che l'uomo era ferito. Aveva del sangue sulla spalla e sul petto e la giubba era strappata all'altezza della clavicola. Non è grave, disse l'uomo. Tu invece, fammi vedere. Con gesti rapidi, l'uomo le aprì la giacca, slegò la camicia e le guardò il fianco. Poi strinse di nuovo la stoffa, questa volta più forte, tanto che a Elena mancò il fiato per un attimo. Poi le infilò nuovamente la giubba e la scrollò appena per le spalle. Non sapeva cosa dire. Si sentiva sola e aveva paura, ma non riusciva a darlo a vedere. Aveva una maschera sul viso, di cui non conosceva l'espressione. «Elena», disse lui fissandola, «devi andare, adesso». Lei si alzò, prese dallo zaino i caricatori per la Walter e diede un'occhiata al carcano. «Non preoccuparti, lo prendo io. Me lo devi riportare, ghiaccio». «Nessun problema», disse lui, «ma tu fai presto». Corse lungo il corridoio e arrivò all'ultima finestra sul lato est. Dalle fondamenta partiva subito un pendio abbastanza ripido che proseguiva verso l'alto per diversi metri prima di addolcirsi e infilarsi nel bosco 50 metri più a monte. La pioggia aveva creato un rivolo di fango lungo il declivio, accumulando terra ed erba proprio sotto di lei. Ghiaccio aveva ragione. Non erano più di 3 metri, forse meno. Si guardò attorno. Non vide tedeschi e rumori della battaglia provenivano dall'altra parte dell'edificio. Salì sul davanzale, chiuse il bottone della tasca in cui teneva la pistola, premette con la mano sul fianco ferito e si buttò di sotto. La pioggia era fredda e scendeva con violenza, mentre la terra bagnata la faceva scivolare da tutte le parti. Non riusciva a fare presa con gli scarponi e nemmeno trovava appigli utili. Eppure andava avanti. Arrivò una scarica di proiettili. Colpirono la terra accanto a lei, sulla destra, alzando fango e acqua. Rotolò di lato per qualche metro, scivolando verso valle. Poi si rialzò e ricominciò a salire. Poco dopo gli spari si fermarono. Non ebbe il tempo di guardare, presa com'era dalla corsa e dalla fatica, ma immaginò che qualcuno le stesse coprendo la fuga. Spinse sulle gambe con tutta la forza che aveva e raggiunse il bosco. Si gettò dietro il tronco di una grande quercia e si coprì la testa con le mani. Non volle guardare la situazione giù accadotto. Qualsiasi cosa stesse succedendo, non avrebbe mai potuto intervenire. Doveva solo sperare nelle risorse del branco e avere fiducia negli ordini di ghiaccio. Riprese a correre tagliando in due il bosco e presto raggiunse la vetta del colle. Una fitta di dolore le arrivò dal fianco destro e per un attimo perse l'equilibrio, toccando terra con il ginocchio. Si appoggiò a un albero spremendo fiato dai polmoni, poi sollevò il giaccone e vide una grande macchia rossa colorare la pezza che proteggeva la ferita. Strinse forte gli occhi e imprecò, ma si rialzò di nuovo. I rumori della battaglia arrivavano lontani, filtrati dal bosco, deviati dal colle e ovattati dalla pioggia. Si girò verso valle per scegliere la via migliore. Voleva scendere dal campo e risalire dall'altra parte, direttamente su pendii di Montesole. Ma quando vide ciò che stava accadendo nella valle, capì che quella via era chiusa. 3 colonne di soldati tedeschi uscirono dal bosco e procedettero verso la vetta del monte. Erano 3 tentacoli di una gigantesca piovra che stava divorando tutto. Salivano quasi in fila indiana, parallele. Non vide cannoni e nemmeno mezzi blindati. Solo uomini, ben armati, incuranti della pioggia. Cercò di non farsi prendere dallo sconforto. Tracciò con gli occhi il profilo del monte e riprese a correre. A questo punto aveva un'unica possibilità, seguire il crinale aggirando la vallata e poi ritrovarsi su Montesole a un'altezza maggiore rispetto a quella dei tedeschi. Era partita da un punto più elevato e adesso poteva correre in piano, mentre le SS stavano affrontando la salita. Se si fosse mossa velocemente, sarebbe arrivata a Cerpiano prima di loro. Avrebbe potuto avvertire Anita e poi correre in cima al monte per dare l'allarme. Questo era il piano. Correva e correva e correva, con la pioggia che le chiudeva gli occhi e appesantiva i vestiti, con l'anima che vacillava, la vita in fuga. Correva e guardava i tedeschi, uno sguardo sul sentiero e uno sulla valle. Schivava gli alberi all'ultimo momento, si spostava a scatti laterali, saltava piccoli fossi. Adesso che l'adrenalina aveva lasciato il campo all'ansia, il dolore al fianco era quasi insopportabile. Bruciava sulla pelle e si infilava nelle viscere, risalendo lungo le vene. Eppure era un problema che non poteva affrontare adesso, e allora continuò a correre. Superò una leggera salita al termine della quale il bosco finiva per dare spazio a un campo appena seminato. Non poteva attraversarlo, perché sarebbe sprofondata nel fango. Così deviò verso sinistra, tenendosi dalla parte della vetta. Seguì di corsa il perimetro del campo, e quando arrivò dall'altra parte, Montesole era proprio davanti a lei, raggiungibile in pochi minuti. Controllò la situazione e vide che un battaglione di SS aveva fatto una leggera deviazione a destra, dirigendosi verso di lei, mentre le altre due formazioni proseguivano in linea retta. Cercò di immaginare i loro obiettivi. I soldati che procedevano dritti si dirigevano verso la chiesa di Casaglia, mentre gli altri proprio a Cerpiano. Arrivò con il cuore che pompava sangue acido e i muscoli così imballati che quasi non riusciva più a muoversi. Dovevano essere ormai le 9 di mattina, perché la luce era intensa e le persone erano già in movimento nonostante la pioggia. Una volta in casa urlò il nome di Anita, ma una delle donne della sua famiglia le disse che Anita era in chiesa. Entrò e vide una decina di persone che pregavano in silenzio. Si voltarono tutte verso di lei, abbagliate dalla luce che entrava dal portone spalancato. Vide Anita in un angolo, le fece segno di uscire e l'aspettò fuori, accanto all'ingresso. «Elena, cosa succede?» chiese Anita. «I tedeschi stanno arrivando». Le parole le uscivano a intermittenza, trasportate dal fiato grosso. «Ma cosa dici?» «Sono nella valle, stanno salendo, arrivano proprio qui. Ci hanno attaccato, Cadotto, Lupo è morto». Aspettò qualche istante prima di continuare, voleva che Anita capisse bene la gravità della situazione. Poi disse: «Ho lasciato il branco per venire qui, devi scappare nei rifugi, subito, dobbiamo avvertire tutti, poi vado su a Montesole ad avvertire gli altri». Si riunirono sotto la pioggia, una trentina di persone. Elena spiegò a tutti la situazione, ma non fu convincente. Non riuscì ad abbattere quel muro di diffidenza che da sempre divideva i contadini dai partigiani. Si fece avanti un uomo sulla quarantina. Guardò tutti con occhi severi. Poi si tolse il cappello mettendo in mostra la testa pelata e una brutta ferita sulla parte sinistra del cranio. Disse: «I tedeschi nel mega Kepernoether, i voleni partigiani. Se ci nascondiamo nei boschi e loro ci trovano, ci scambieranno per i banditi e ci uccideranno tutti. Ah, vada a tornare in casa, fare i nostri lavori come se niente fosse e aspettare che passino». Così li chiamò quell'uomo i partigiani, banditi. Elena reagì come se avesse ricevuto una sberla. Si chinò in avanti, piegò un poco le gambe e appoggiò le mani sulle ginocchia. E non riuscì a dire niente. L'uomo non la guardò neanche. «Non faremo come dici tu», disse. «A vi portegni in tetra che di guai. Adesso torniamo in casa e aspettiamo. Ecco, a farà proprio a xè». In un solo giorno aveva perso diverse guerre e non sapeva come rimediare. Pensò ai partigiani in cima al monte, ma proprio quando stava per dire ad Anita di prendere i bambini e di andare nel rifugio, i tedeschi arrivarono. Se ne accorse l'amica per prima. Prese Elena per il bavero inzuppato della giacca e con un strattone forte la trascinò dentro la grande casa. Chiamò a sé i figli e li consegnò nelle mani delle sue parenti, poi spinse Elena sulle scale. Quando arrivarono in camera, Anita tirò fuori da un baule dei vestiti che gettò su uno dei letti. Elena iniziò a spogliarsi ancora una volta, facendo attenzione alla ferita che aveva sul fianco. Il sangue si era fermato, ma i bordi erano rossi e molto doloranti. «Porca vacca!» esclamò Anita guardandola. «Un proiettile», rispose. «Niente di grave». «Col cavolo che non è grave. Aspetta». Uscì dalla stanza per poi tornare qualche istante dopo con una pezza di cotone e una bottiglia di alcol. Appoggiò il cotone sotto l'anca e rovesciò sulla ferita il liquido rosa. Elena provò una fitta di dolore così forte che per un istante perse i sensi. Si lasciò cadere indietro e l'amica dovette sorreggerla per un braccio, aiutandola a sedersi sul letto. «Elena», disse Anita, «non abbiamo tempo, ti prego, devi reagire». Lei la guardò appena e con cautela si rimise in piedi. Aveva la testa che le girava, le gambe senza forza e le sembrava che tutto il corpo gridasse aiuto. «Avanti», disse, «fai quello che devi fare». Anita rovesciò altro alcol sulla ferita, assicurandosi che non ci fossero residui di terra sulla pelle. Poi le avvolse la pezza attorno ai fianchi, stringendola forte e infilando gli angoli all'interno della piegatura. Quando scesero, le SS erano già entrate in casa e stavano urlando a tutti di uscire. Elena aveva nascosto la pistola in una tasca della gonna che Anita le aveva dato e per un momento ebbe l'istinto di estrarla e fare fuoco. La strinse forte nella mano sinistra armando il cane, ma un soldato la prese per il braccio e la spinse fuori, costringendola a lasciare la presa. Si aggrappò ad Anita per non cadere. Si guardò attorno. Non aveva paura, solo dolore al fianco e tanta stanchezza. Cercò i bambini di Anita. Erano insieme a tutti gli altri, attorno ad Antonietta Benni. La suora stava parlando con un graduato tedesco, che la guardava dall'alto senza nessuna espressione in viso. Vide Mario girarsi e correre dalla sua parte, mettendosi in mezzo tra lei e Anita. Elena gli accarezzò i capelli bagnati e gli fece un sorriso, sperando che bastasse per tranquillizzarlo. Ormai erano tutti fuori. I tedeschi li avevano radunati al centro della piazza e chiusi in un cerchio. Tre soldati fecero uscire dal gruppo gli uomini e li condussero verso il bosco, fermandosi proprio sul confine. Poi li fucilarono. Le donne iniziarono a urlare e a spingersi l'una contro l'altra. Qualcuna cadde a terra e una ragazza giovane prese a correre verso il retro della casa. La colpì una raffica di mitra sparata da un tedesco che non la guardò neanche cadere a terra. Le SS usarono il calcio dei fucili per costringere tutto il gruppo a entrare nell'oratorio. L'ambiente era piccolo e male illuminato e lo occuparono in ogni spazio. Tutte urlavano così tanto che la stanza sembrava pulsare. Elena si rifugiò in un angolo, scegliendo quello più vicino alla finestra che dava sul retro dell'edificio. Aveva spinto Mario dietro la sua schiena, obbligandolo a sedersi a terra e con lo sguardo rassicurò Anita. Al bambino ci avrebbe pensato lei. C'erano due finestre, una lì accanto, l'altra sulla parete di fronte, lontana forse 5-6 metri. Sentì infrangersi i vetri e vide due tedeschi affacciarsi all'interno per ritirarsi dopo qualche istante. In quel momento capì. Urlò il nome di Anita con tutto il fiato che aveva, ma la voce venne inghiottita dal caos. Vide l'amica girarsi verso la finestra e mettersi una mano sulla bocca, come per trattenere a sé la propria vita. Si girò verso Mario e lo strinse con tutta la forza che aveva. Così come aveva fatto Albertina con lei qualche anno prima. Elena spinse il bambino sul pavimento egli si raggomitolò sopra. Scoppiarono 4 bombe in quella stanza, ma Elena ne sentì esplodere solo 2. La carezza è la mitraglia. Legge Andrea Cegna. Settembre 1944, venerdì. Elena. Quando riprese conoscenza, era già sera. Un suono sottile ronzava senza interruzione, compresso dentro una scatola di vetro. Rimbalzava da una parte all'altra della stanza senza sosta. Impiegò parecchio tempo per capire che quel suono in realtà era dentro la sua testa. Prima ancora di aprire gli occhi, strinse la presa sul corpo che aveva tra le braccia, sentendone il calore. Mario la fissava da 30 centimetri, gli occhi rossi e vuoti e freddi, respirava appena, senza piangere. Cercò di capire se fosse stato colpito dalle bombe, ma non sembrava ferito. Passò in rassegna il proprio corpo. Sentiva un peso sulla schiena, ma nessun dolore particolare. Si guardò le mani e mosse lentamente le dita dei piedi. Quando provò a girarsi, il corpo di una donna scivolò di lato e colpì le gambe del bambino, accasciandosi lì accanto. Dall'addome uscivano i visceri, e le mancavano entrambi gli avambracci. Prima che Mario si accorgesse di lei, girò il corpo della donna a pancia sotto. «Mi senti?» chiese al bambino. Lui non rispose. La guardava, senza un movimento. Sembrava fatto di ghiaccio colorato. «Mario!» sussurrò decisa. Lo scosse appena, e senza pensarci troppo gli diede un pizzicotto su una guancia stringendolo forte. Il bambino fece un movimento e sbatté gli occhi, allontanandosi un po' da lei per vederla meglio. «Sono qui», disse. «Bravo il mio Ometto. Dov'è la mamma?» «Mario, lo sai dove siamo? Cos'è successo?» Lui si guardò attorno, cercando spunti di riferimento conosciuti. Poi disse: «In oratorio, sono morti tutti». «Beh, non proprio tutti, noi siamo vivi». «E la mamma?» Lo strinse a sé. Con un filo di voce disse: «Non lo so. Adesso guardo, ma tu devi promettermi che terrai gli occhi chiusi fin quando non ti dirò di riaprirli e che sarai forte, va bene?» Senza aspettare la risposta, si girò e vide la faccia della morte. C'erano corpi stesi a terra su tutta la superficie della stanza e nessuno era intatto. Il sangue colava sul pavimento formando grandi pozze dense e scure e si sentivano lamenti provenire dall'oscurità. Cercò di dare un volto a quella distruzione e in tutto quel caos vide Antonietta Benni. Era sdraiata sotto 2 corpi ed era viva. Aveva le mani unite e stava pregando, incurante della profonda ferita all'altezza della spalla. Elena prese un pezzo di legno che trovò lì accanto e lo tirò verso la donna, mirando al muro. Quando se ne accorse, la suora aprì gli occhi e la guardò. Si scambiarono un segno, poi le tornò le preghiere. Lì accanto c'era Anita. Le esplosioni l'avevano scaraventata contro il muro, alla sua destra. Le spalle erano sul pavimento e il resto del corpo si poggiava con la schiena contro la parete, gamba all'aria. Il collo era completamente girato su se stesso e il viso era imbruttito da un'espressione di terrore. Elena si girò verso il bambino e lo vide con gli occhi chiusi e la testa incassata fra le ginocchia, come aveva promesso. «Tesoro», disse, «la mamma non ce l'ha fatta. Mi dispiace». Avrebbe voluto usare parole diverse, ma le uscirono quelle. Se le fece bastare. Mario non alzò la testa, però disse: «Alzaveva». Elena gli appoggiò una mano sulla schiena e sentì i suoi singhiozzi. Restò ferma, così, per chissà quanto tempo, senza prospettive. Intuì che aveva smesso di piovere, ma dalle finestre infrante entrava comunque un'aria umida da pieno autunno. Doveva esserci vento perché le parve di percepire il rumore del bosco. Sentiva ancora qualcuno lamentarsi e cercò di capire quante persone fossero sopravvissute. Stava per rialzarsi quando vide nell'ombra una donna correre verso la porta. Non fece in tempo a uscire che una raffica di mitragliatrice la respinse indietro. Cercò di riflettere, ma non riuscì. Non riuscì a capire la situazione. Perché li lasciavano lì? Le SS dovevano pur sentire i lamenti dei sopravvissuti. Perché non entravano per freddarli tutti? Prese Mario tra le braccia e lo strinse delicatamente. Lo coccolò un poco e quasi subito il bambino si addormentò. Nella notte arrivò una musica. Non sapeva quel brano. Era una melodia dolce che strideva contro i corpi massacrati e l'odore di morte. Qualcuno stava suonando l'armonio nella chiesa accanto. Le sembrava di vederlo quel tedesco seduto chino sui tasti, ne immaginava il volto, il colore dei capelli, le mani in movimento. Elena tornò indietro nel tempo, in un mondo che non conosceva. Vide tutti i giorni nei quali bambino aveva trascorso studiando pianoforte, facendo sacrifici, subendo i rimproveri dell'insegnante sotto lo sguardo attento di un padre troppo severo. Pensò alle battute di arresto e alle ripartenze, agli sguardi dolci di una madre orgogliosa, alla gioia provata dopo il suo primo saggio. Poi a scuola, scambiare pacche sulle spalle coi compagni di classe, mentre una ragazzina lo guardava sorridendo, senza farsi vedere. Lo vide anche anni dopo suonare per quella stessa ragazza, improvvisare accordi armonici complessi, raccontare quanto fosse superficiale e sciocco Mozart, così, giusto per darsi un tono. E alla fine Elena si chiese: cos'era rimasto della vita di quel ragazzo, se non essere lì a suonare un vecchio armonio nella chiesina di Cerpiano, sul Monte Sole, vicino a Marzabotto, mentre una stanza accanto, una cinquantina tra donne e bambini, erano morti sotto le bombe che lui stesso aveva tirato? Non trovò risposta. Elena decise di muoversi. Non appena sollevò il busto, partì una scossa del fianco destro. Si chinò, in avanti, con la mano appoggiata sulla ferita, recuperando un poco di forze. Non poteva cedere al dolore, non in quel momento. Restando attaccata alla parete, raggiunse la finestra e sollevò un poco la testa. Un tedesco faceva la guardia appoggiato al muro esterno, sul retro dell'edificio. Aveva gli occhi chiusi e fumava una sigaretta. Elena guardò il paesaggio e rimase colpita dalla quantità di fuochi accesi nella notte. Erano i casolari incendiati dai tedeschi. Alle SS non era bastato uccidere tutti, avevano voluto andare oltre, cancellando ogni ricordo, ogni testimonianza di vita, ogni traccia superstite. Quei fuochi erano tutto ciò che rimaneva della gente di montagna. Pensò ai partigiani arroccati sul Monte Sole. Erano così vicini, certamente avevano sentito l'esplosione, i colpi di mitraglia e forse stavano anche ascoltando quella musica. Eppure non intervenivano. Perché? Tornò da Mario e si raggomitolò lì accanto. Il bambino addormentato si mosse nel sonno e si strinse a lei, sospirando appena. Elena sentì di non avere più le energie, né speranze. Tutto le sembrò inutile. Chinò la testa e piano iniziò a piangere. La svegliarono la luce del giorno e i rumori dei soldati nell'aia. Era intorpidita e aveva freddo. Cercò di muoversi, ma i muscoli erano duri come pezzi di marmo mentre il fianco pulsava forte. Sollevò la testa e vide un soldato spostarsi all'esterno dell'oratorio, proprio davanti alla porta d'ingresso. Fece stendere Mario e gli intimò di non muoversi e di tenere gli occhi chiusi. Poi si sdraiò su di lui, coprendosi alla meglio coi corpi morti che circondavano. Vedeva solo la porta e sulla destra Antonietta Benni. C'erano donne che ancora si lamentavano e si muovevano. Avrebbe voluto agire, ma sapeva di non poterle aiutare in alcun modo. In quel momento l'unica cosa sensata era cercare di salvarsi la vita e occuparsi di Mario. Lo doveva ad Anita e forse alla vita in generale. Il soldato che entrò nella stanza era giovane e alto, come tutti i tedeschi. Indossava la sua perfetta uniforme ed era già carico di armi e munizioni, pronto per colpire. Estrasse dalla fondina la pistola, una Walther P38 come la sua, e iniziò a camminare tra i corpi. Ogni volta che trovava una donna ancora viva le sparava alla testa, una alla volta, con lentezza e precisione. Fece tutto il giro della stanza e quando arrivò da lei La colpì al fianco sinistro con un calcio così violento da toglierle il fiato. Sentì chiaramente il rumore di una costola rompersi e per un momento credette di svenire di nuovo. Non capì mai come riuscì a non urlare e non aprire gli occhi e a non reagire, a non muoversi. Se l'avesse colpita sulla parte destra, quella ferita, tutto sarebbe stato diverso. Il crucco passò oltre e raggiunse il lato dove c'erano Anita e Antonietta Benni. Superò il corpo morto dell'amica senza quasi guardarlo, ma quando arrivò ad Antonietta si fermò. Di lei si vedeva solo una parte del viso e il braccio sinistro ferito alla spalla. Sollevò la mano della suora e poi la fece cadere. La pestò con il tacco e non vedendo reazioni proseguì. Aveva sentito un gemito e raggiunse la donna che si stava lamentando. Se ne andarono dopo mezz'ora. Elena uscì dall'oratorio tenendo Mario per mano e si immobilizzò. L'aria era umida e pesante e una pioggia fine sembrava galleggiare a mezz'aria. Era stanca e incredula, si era salvata ma non riusciva a provare sollievo. Vivere o morire, in quel momento avevano lo stesso significato. Arrivò anche Benedetta Benni, restò sulla porta qualche istante, spaesata, poi le si avvicinò. Le due donne si guardarono senza parlare. La suora aveva una brutta ferita alla spalla e aveva bisogno di un medico. Elena si inginocchiò e prese il viso di Mario tra le mani. Solo in quel momento si rese conto che il bambino aveva un grosso livido sulla tempia destra e un sopracciglio un po' gonfio. Il naso gli colava e gli occhi erano iniettati di sangue. Doveva provare molto dolore, ma non sembrava spaventato. «Se il mio metto forza», chiese. Il bambino rispose tirando su col naso. «Mario, adesso tu stai con la maestra, va bene?» «Sì». «Bravo, lei ti vuole bene e sa cos'è meglio per te». Poi, senza rialzarsi, guardò la suora e disse: «State in casa fino a domani. C'è dell'alcol all'ultimo piano. Disinfettati. Per nessuna ragione entrate in oratorio. Mi hai capito?» «Va bene. Domani mattina prendete le vostre cose e scendete a Marzabotto. Passate da Prunaro. Se c'è ancora qualcuno vivo, Mario si ferma lì. Altrimenti lo porti con te. A Marchand». Era la prima volta che usava il dialetto in vita sua. Quella parola uscì da sola, senza preavviso. L'ascoltò più che pronunciarla, guardò la suora e per essere sicura tradusse in italiano: «Mi raccomando». «Farò del mio meglio», disse Antonietta Benni. Elena baciò Mario sulla fronte, poi se ne andò, non lo rivide più. Era abituata a indossare la gonna, si impigliava da tutte le parti e la pioggia l'aveva resa pesante e rigida. Cercò di accorciarla strappando l'orlo, ma il tessuto era così resistente che non ci riuscì. Appena iniziò a muoversi, il dolore al fianco la costrinse a procedere a piccoli passi. Teneva una mano sull'addome e l'altra stretta sulla pistola. Ogni rumore, ogni ombra, ogni odore che non fosse il proprio le faceva scattare i muscoli e il dolore aumentava. Temeva di incrociare dei tedeschi in qualsiasi momento. Se non fosse successo, sapeva bene che non avrebbe avuto la forza di reagire. Si sentiva l'anima come ancorata al suolo di una catena di ferro. Quando uscì dal bosco, a Casaglia, la situazione peggiorò. Nel cimitero erano ammassati i corpi di un centinaio di donne. Si capiva guardandole che prima di morire si erano strette in un disperato abbraccio collettivo, rivelatosi poi inutile. C'è una contadina curva sul corpo di una ragazza, le teneva la testa in grembo e la scuoteva un poco, senza piangere. Tra i corpi vide anche molti bambini, ma fu un'immagine che non riuscì a razionalizzare. Soffocò il pianto. Raggiunse la chiesa e chissà per quale motivo decise di entrare. Era vuota e silenziosa. Una luce tenue entrava dalla finestra sul lato est. Sembrava che non fosse accaduto niente. Poi però si avvicinò all'altare e vide il corpo del prete e quello di un'anziana morti tra i banchi. Accanto alla donna c'era una sedia a rotelle rovesciata. Non sapeva chi fosse la signora, ma conosceva il parroco. Si chiamava Don Ubaldo Marchioni ed era un ragazzo. Teneva il rosario intrecciato tra le dita. Si sedette su una panca e fissò i corpi di quelle persone, perdendo la cognizione del tempo. Arrivarono rumori dall'esterno, c'erano dei tedeschi oltre il portone, corse dietro all'altare e si infilò nella porticina che portava alla sacrestia, poi uscì dal retro, tuffandosi nel bosco. Non le restava che raggiungere la tesola e fare il punto della situazione. Lì, dove si trovava adesso, non riusciva a orientarsi, così prese coraggio e si arrampicò su un castagno. Dai casolari incendiati si alzavano lente strisce di fumo e anche i campi sembravano devastati dall'onda lunga dell'odio nazista. Gli abitanti di quei luoghi avrebbero impiegato anni prima di riprendersi, sempre che qualche civile fosse sopravvissuto a quella terribile notte. Pensò per un attimo a Mario e al suo destino. Era così confusa che non riuscì a formulare nessun tipo di ragionamento. Non c'erano prospettive per nessuno. Bisognava solo aspettare, seppellire i morti e sperare. Elena camminò fino al termine del bosco, poi attraversò gli stessi campi che i tedeschi avevano risalito il giorno prima, trovando le loro tracce nel fango. Proseguì in linea retta, fermandosi sul ciglio di un canalone. Valutò che per superarlo non aveva altra scelta che lasciarsi scivolare fino in fondo, e così fece. Una volta risalita dall'altra parte, si trovò di fronte a una grotta. C'era un'apertura di 2 metri per 2, posta da almeno 3 metri di altezza. Non sembrava scavata dall'uomo perché l'arenaria era erosa in maniera scomposta. La nascondeva una fitta vegetazione, soprattutto edera. Restò in ascolto per qualche istante, poi vide un'ombra muoversi proprio sull'entrata. Senza preoccuparsi troppo si arrampicò. Difficile che si fossero nascosti dei tedeschi. Era molto più probabile incontrare dei civili sfuggiti al massacro. Invece, seduti uno accanto all'altro, contro la parete di destra, erano nascosti 8 partigiani. La guardarono senza dire niente, mentre lei cercava di abituarsi all'oscurità. C'era odore di muffa e di chiuso, e dopo poco vide che la volta della grotta era annerita dal fumo. «Con quale battaglione stai?» chiese un uomo alzandosi. Aveva un'aria baldanzosa e parlando si accese una sigaretta. Pensò di chiedergli come avesse fatto a capire che anche lei era una partigiana, ma non lo fece. «Sto col branco», disse. Sentendo quelle parole, gli occhi di tutti i ragazzi si accesero. Dal fondo della grotta qualcuno disse: «Porca vacca!» «Poi, voi cosa ci fate qui?» domandò. «Ci hanno detto di andare su, a Montesole, ma poi abbiamo beccato i tedeschi, così ci siamo nascosti. Come stanno le cose? Li abbiamo fatti fuori?» Lei lo guardò con aria severa. Lo sconforto e la rassegnazione provati fino a un attimo prima si erano trasformati in una rabbia tagliente che sconfinava nell'odio. «Se li abbiamo fatti fuori? Certo, come no. Lupo è morto, il branco non esiste più e i tedeschi hanno massacrato centinaia di civili e voi eccovi qua, nascosti in una grotta». Sentì gli occhi bruciare, guardò gli uomini uno a uno, ma loro si giravano dall'altra parte. Il partigiano fece un passo verso di lei e provò a spiegargli, ma lei lo respinse con forza. «Vaffanculo!» urlò. «Col cazzo che mi freghi! Ma chi cazzo sei tu? Se vedi un tedesco gli devi sparare, non guardarlo che passa. Sono morte donne e bambini a centinaia. Si appoggiò a una parete, scivolò sulla schiena e toccò terra singhiozzando come una bambina. Restò lì, smarrita. Nessuno ebbe il coraggio di avvicinarsi o anche solo a dire qualcosa. Tutti la guardarono ammutoliti, aspettando che smettesse. Fu il dolore a riportarla in sé. La ferita al fianco lanciava fiamme di fuoco così potenti che risalirono l'addome e le bloccavano il fiato. Fece forza sulle gambe e si alzò, con il fazzoletto che aveva al polso, e si asciugò le lacrime, e quando pensò di essersi ripresa disse: «Non so se siete di qua o se avete parenti da queste parti, e sinceramente non me ne frega un cazzo. Però vi consiglio di uscire da questa bomboniera e di tornare da dove siete venuti. Qui non c'è più niente da fare». Percorse il tratto di strada fino alla tesola, senza alzare mai gli occhi da terra. Aveva un buco al posto del cuore e si stava riempendo di piombo. Dal 1938 aveva iniziato la lotta antifascista, ma aveva l'impressione che fosse stato tutto inutile. Aveva perso le persone più care e adesso era venuta a galla una sensazione di sconfitta totale. Rimpianse di non aver imparato a vedere la situazione da una prospettiva generale, come faceva Ghiaccio, perché forse in quel momento avrebbe potuto dare un senso a quegli anni. Forse. Invece, aveva provato a risolvere le cose da sola, ma il tragico risultato del fallimento era lì davanti ai suoi occhi. Dai campi si alzava una leggera colta di umidità che sfocava i contorni del paesaggio. Si sentiva solo il suono della pioggia e anche guardando con attenzione non riuscì a scorgere nessun movimento. Sembrava che non ci fosse più vita su quelle montagne. La terra si era arresa. Sullo sfondo c'era Montesole. Quella bastarda collina boscosa, silenziosa come una lapide. Provò un profondo odio per quel colle e desiderò di non essere mai stata lì. Raccolse le ultime energie e le vomitò insieme a un urlo così violento che si sentì bruciare la gola. Raccolse un sasso, ci si avvolse sopra l'anima e lo scagliò nel vuoto. Carezza e la mitraglia. Legge Chiara Serpicanaro. Dicembre 1944, giovedì. Elena. L'inverno la colse di sorpresa. Arrivò da est, portato da un vento siberiano, e si abbatté sulle montagne. Fu una stagione spietata, fatta di neve precoce e giorni grigi. Mentre le notti erano così buie e solitarie, che se solo provava a uscire veniva colta da un senso di abbandono che la lasciava senza fiato. I colori che tanto l'avevano colpita nei mesi precedenti sembravano spenti, privati d'ogni energia vitale, e sui colli più alti le nuvole calavano fino al suolo, avvolgendo tutto in una fitta nebbia. Dalla battaglia di Cadotto tutti i componenti del branco si erano salvati, ma Ultimo aveva riportato una ferita da mitraglia al ventre ed era molto grave. Non potendo fare altrimenti, Mezzanotte e Orso costruirono una portantina e lo trasportarono a Marzabotto. Rimasero via un giorno e dalla valle risalì solo Orso. Dei due gemelli nessuno seppe più niente. Il 13 novembre 1944, il comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo, maresciallo Harold Alexander, conte di Tunisi, proclamò la cessazione di ogni operazione di guerriglia partigiana nel nord Italia. Il discorso fu trasmesso via radio sulle frequenze d'Italia Combatte e fece il giro del paese grazie al passaparola. Di fronte a quella decisione, anche l'ultimo nucleo attivo della Stella Rossa si sciolse. Sfumato il sogno dell'insurrezione, i pochi partigiani rimasti sulle montagne lasciarono le armi e tornarono alle loro case. Chi veniva dalla città si ricongiunse ai GAP, aspettando il momento giusto per l'attacco finale. Gli altri restarono a contare i superstiti. Gli alleati scesero fino a Pianoro e si fermarono. Erano a un passo dalla città, ma non andarono oltre, lasciando Bologna ancora in mano ai tedeschi. Il conflitto si trasformò in una guerra di trincea combattuta da soldati allo stremo delle forze. Una sera di dicembre, Ghiaccio riunì il branco e disse a tutti di tornare a casa. Se qualcuno voleva combattere, poteva farlo a Bologna, ma restare su quelle montagne non era più necessario. Erano liberi di decidere. Il giorno dopo, Elena scese a Marzabotto per recuperare i viveri e incontrare una staffetta proveniente dalla città. Si offrì volontaria perché sentiva il bisogno impellente di stare un po' da sola, e quello che accadde diede alla sua vita una direzione inaspettata. Si trovava in coda a un chiosco di un contadino e davanti a lei c'erano due donne che parlavano. Quella più robusta stava raccontando all'altra di un gruppo di tedeschi arrivati dalle sue parti. Senza un motivo logico, quel racconto catturò la sua attenzione. Seguì la donna tutta la mattina, tenendosi a distanza. Quando la vide uscire dal paese, si avvicinò, l'afferrò per un braccio e disse: «Continua a camminare, mi chiamo Elena e sono una partigiana». Sentì la donna irrigidirsi sotto gli abiti invernali, eppure eseguì l'ordine senza opporre resistenza. «Ho solo bisogno di informazioni», la rassicurò. «Va bene», disse la donna. La guidò in un vicolo laterale, stretto tra due case in pietra, lontano dalla strada. Una volta ferme, la guardò in viso per qualche secondo. Non voleva impaurirla, ma fu comunque diretta. Parlò, senza lasciarle mai il braccio. «Ho sentito che dei tedeschi sono venuti vicino a casa tua», disse. «Sì», rispose la donna. «Quanti sono?» «Non lo so». Elena le strinse il braccio più forte. «Ai!» esclamò la donna. «Quanti sono?» chiese di nuovo. La tizia restò in silenzio per un po', poi iniziò a raccontare. «Hanno occupato il casolare dei Malferrari, i meccanici, al massimo una decina di tedeschi. Un giorno è arrivata una macchina. Si sono fermati da noi per chiedere informazioni. Non trovavano la strada. Poi, dal sedile dietro, sono usciti due tedeschi. Uno era alto e l'altro senza un braccio. Non sono più andata da quelle parti, quindi non...» Elena la zittì con una strattonata, la guardò negli occhi e chiese: «Un graduato, senza il braccio sinistro? Tagliato qui?» La donna ci pensò un po', poi disse: «Sì, credo di sì». Grande fortuna, il grande onore. minimi spatti, bruciare le case di tante frazioni e massacrare la popolazione. Anche a Villa Dignano, Ordeggia, Certicano, il perdito nazista sempre più disumano non si stanca di massacrare. Distruggevano ovunque anche gli animali. Tre sono gli scampati a questi gravi disastri. Il primo è Mari Ricardi, mio borghese Comastri. Quante torture, sacrifici e dolore, trovarsi nel mezzo alla morte e al terrore. Di Marsamondo intorno non resta che ricordi, 1130 persone, fratelli tutti morti, triste ricordo del folle invasor, la vita umana perfida senza la gente. Vivi infami e traditor, or dovranno pagare tanto orrore. Questo è un gran ricordo che resta nella memoria, l'eccidio di Marsamondo ne parlerà la storia. 25 aprile 2020, Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate, da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Carezza e la mitraglia. Legge Valerio Canè. Il 25 luglio 1946, giovedì, ore 10:38. Il giorno in cui tornò, arrivò in via Nosadella e si fermò proprio all'inizio del portico. La strada sembrava viva. Qualche negozio aveva riaperto e non vide segni di bombardamenti. La gente camminava dando l'impressione di avere una meta precisa e c'erano persone che si muovevano in bicicletta. Sembrava una zona della città risparmiata dalla guerra. Il giorno in cui tornò, si avvicinò al civico 27 con l'anima in preda al panico. Sapeva di essere arrivato alla resa dei conti. Aveva superato tanti incroci e spesso aveva scelto la direzione tirando a sorte. Questa volta non avrebbe avuto alternative. Rimase 1 ora e 18 minuti fermo davanti al portone, aspettando lo slancio giusto. Fu un colpo di vento a spingerlo nell'atrio del palazzo. La luce tenue e l'odore di umidità gli fecero torcere il naso, ma sebbene fosse passata una vita intera, riuscì a percepire la stessa atmosfera che aveva già vissuto un tempo. Eppure c'era qualcosa di diverso nell'aria, qualcosa che rendeva quella scena estranea. Non gli diede peso. Si avvicinò alle scale e iniziò a salire. Si fermò davanti alla porta dell'appartamento di Albertina e aspettò. Lì dietro c'era la sua nuova vita, qualunque forma avesse. Dopotutto era fiero di sé. Aveva fatto una promessa e l'aveva mantenuta. Era tornato e il cerchio si stava per chiudere. Il giorno in cui tornò, Odino bussò 3 volte e poi 3 volte ancora. La carezza e la mitraglia. Legge Yvonne Capece per Sblocco 5. Aprile 1945, martedì 17:47. Anima. Quella lettera era diversa dalle altre che aveva ricevuto. L'aveva capito da tempo e quando l'aprì ne ebbe la conferma. Nessuna notizia, nessuna immagine, nessuna spiegazione. Solo un nome e un consiglio. Il nome fu una conferma. Il consiglio invece non lo ascoltò. Era calata la sera, lì tra le montagne. Giù in pianura forse era ancora pomeriggio, ma in quella valle il sole era già tramontato dietro il corno alle scale. Si girò verso il casolare e guardò la stanza nella quale Reder si sarebbe immerso nella vasca per il suo ultimo bagno caldo. Proprio in quel momento entrò la signora che aveva visto pulire la vasca. Teneva tra le mani alcuni teli bianchi che sistemò con cura sul bordo del letto. La vide guardarsi attorno per controllare che tutto fosse a posto, poi avvicinarsi alla vasca e scavalcare il bordo con un po' di fatica. Quando avvicinò l'occhio al cannocchiale del Mosinagan, ebbe un sussulto. La signora si era alzata la gonna e stava facendo pipì nella vasca. Non c'erano dubbi. Soffocò una risata con la mano destra e immaginò tutte le volte che Reder si era immerso lì dentro e che la tizia o magari qualcun altro aveva fatto i suoi bisogni nell'acqua. La gente di montagna è proprio piena di risorse, pensò. Appoggiò il fucile accanto a lei e si girò sulla schiena. Di lì a poco avrebbe sparato e tutto sarebbe finito. Non riusciva a crederci. Chiuse gli occhi e si appoggiò la lettera sulla fronte. Strappò un piccolo ramoscello dal pungitopo sul quale era distesa e lo infilò delicatamente nell'angolo dove la carta si piegava su se stessa. Aspettò qualche istante, poi fece leva verso l'alto con delicatezza. Dopo una prima resistenza, la carta si strappò. Con 2 dita aprì la fessura e guardò il contenuto della busta. C'era un foglio di carta, azzurro, piegato molte volte, più spesso al centro. Si accorse che quel pezzo di carta conteneva qualcosa. Estrasse il foglio e lasciò cadere la busta sulla pancia. Era così usurato che le pieghe si erano incollate le une alle altre. Il cuore le faceva male. I battiti erano così profondi che le procuravano un tremore diffuso. Ogni battito sembrava l'ultimo. Cercò di calmarsi almeno un poco, ma proprio non ci riuscì, deglutì e con tutta la forza di volontà che possedeva disfò quei fogli ripiegati. Il pezzetto di legno le cadde sul petto, prima ancora che si accorgesse della sua esistenza. Lo prese in mano delicatamente ed ebbe la chiara sensazione che la vita stipata nel cassetto dei ricordi le fosse piombata addosso con impeto, soffocandola sotto il suo peso. La vista si annebbiò e tutta la sofferenza vissuta in quei lunghi anni di guerra si sciolse in lacrime dense come il miele. Pianse per tutto il tempo perso, per la vita non vissuta, per quello che avrebbe potuto essere invece non era stato. Pianse per quello che era, una partigiana, una donna in guerra, una cecchina, una killer. Pianse per quello che era stata costretta a fare per tenere la mente altrove, per permettere al cuore di battere ancora. Aprì la mano e guardò quello che stava stringendo. Una scheggia di legno, grande come il dente di un leone, si era conficcata appena nella pelle del palmo. Era la seconda volta che riceveva quella scheggia in una busta, ma questa volta quel pezzo di legno aveva viaggiato per oltre 20.000 chilometri, andata e ritorno, stretta nel pugno forte di un uomo in fuga. E adesso era lì, ad aspettare il suo destino. Prese il foglio di carta e lo aprì. Poche parole, scritte a matita e un po' sfocate. Le lesse. Poi le lesse ancora. C'era un nome scritto su quel foglio. Anima. Ora basta combattere. Cerca un riparo e aspetta. Non manca molto. Atene, gennaio 1945. Odino. La carezza e la mitraglia, legge Milin Serpicanaro. Aprile 1945, martedì, prima dell'alba. Missione Alina. Elena. Io vado. Ci hai pensato bene? Ci ho pensato bene. Una volta uscita da quella porta sarai sola. Questo lo capisci? Sì. In nessun modo potrai contattarci e non saremo lì a intervenire se dovessi trovarti in difficoltà. E lascia che te lo dica, ti troverai in difficoltà. È una certezza. C'è una guardia armata a difendere Reder. Lo so, ma ce la farò. Anche senza il mio fucile. Non sai quanto mi pesi non averti riportato il carcano. A Cadotto è stato un inferno. Ma il Mosin Nangat è anche meglio. No, che non lo è. Sei una brava combattente, Elena. Dimmi una cosa, Ghiaccio. Perché le nostre missioni hanno tutti nomi femminili russi? Non te l'ha mai spiegato, Misha? Beh, no. Sono i nomi delle sue fidanzate. Oh Gesù, è proprio un imbecille. In effetti sì. E secondo te ha avuto tutte quelle fidanzate? Chi può dirlo? Voi cosa farete? La guerra ormai è finita, bisogna festeggiare. Non ho molta voglia di festeggiare. Nemmeno io. Quello che abbiamo visto in questi mesi ce lo porteremo dentro per sempre. La nostra vita non sarà mai più la stessa. Ho ripensato a quei giorni terribili di settembre e al nostro comportamento. Non riesco a farmi un'idea precisa. C'era un ordine, Elena. Dovevamo ripiegare su Monte Sole. Come facevamo a sapere che i tedeschi erano qui per colpire i civili? Non l'avevano mai fatto, almeno non così. Lo so, ma io ho paura che non si venga a sapere di questa cosa, che rimanga solo l'idea che non abbiamo combattuto e che abbiamo lasciato i civili al massacro. Ci saremo noi a testimoniare, racconteremo come sono andate le cose. Credi che il mondo supererà tutto questo? La guerra, dico, a ghiaccio? Proprio non lo so. In questi ultimi giorni mi sono chiesto come fare a non trasmettere ai miei figli quello che ho vissuto, se mai ne avrò. O ai ragazzi della scuola nella quale andrò a insegnare. Perché? Ho l'impressione che certe cose sia meglio non raccontarle, che sia meglio far finta che non siano mai accadute. Non sono d'accordo. La memoria è tutto. Se non raccontiamo quello che è successo, si perderà il senso delle nostre battaglie. La gente dimentica presto. Se abbiamo una speranza, e non è detta che l'abbiamo, è nella memoria. Sono certa che i fatti verranno raccontati, quelli di Montesole, così come quelli di altre parti nel mondo. Ma non credo sia sufficiente. Cioè? Dovremmo trasmettere le emozioni. Si raccontano più cose con le emozioni. Il racconto dei fatti non basterà. Non so, mi sembra una cosa difficile da fare. Anche a me. Dovresti scrivere un libro appena torni a casa. Va bene, Elena, vieni qui, fatti abbracciare. Grazie, ghiaccio. Non sono bravo con le parole, ragazzina, lo sai. Però lascia che ti dica che... Non importa, comandante, va bene così. Ti va di fare un'ultima cosa per me? Tutto quello che vuoi. Me lo dici il tuo nome? Carezza e la mitraglia. Legge Silvia Gallerano. Aprile 1945, martedì, ore 18:00, missione Alina, tramonto. Elena. Anima. Aveva combattuto per quasi 2 anni senza un nome di battaglia e poi era arrivato quello. Anima. Avrebbe portato a termine quell'ultima missione con quel nome e nessuno l'avrebbe mai saputo, tranne lei e Odino. Anima. Così. Qualcosa che non c'è, eppure ha un peso. Lo vide dalla finestra. Walter Reder. Finalmente. Entrò nella stanza alle 18, puntuale come la morte. Era solo e si era chiuso la porta alle spalle. Si spogliò, diede un giro di manovella al grammofono e abbassò la puntina. Poi immerse la testa e rimase sott'acqua per parecchio tempo. Quando riemerse, la pelle del viso era rossa. Se c'era una persona al mondo che meritava di morire, era lui. Certo, se fosse sopravvissuto l'avrebbero giudicato e condannato. Ma un colpo in fronte avrebbe risolto tutto subito, risparmiando troppe discussioni inutili. Ripensò alla lettera. «Ora basta combattere», diceva. «Trova un rifugio e aspetta». L'aveva colpita la frase successiva. «Non manca molto». Dunque, le sue visioni erano giuste. Lo sapeva. L'aveva sempre saputo, fin dall'inizio. Odino stava tornando e non si sarebbe fermato proprio adesso. Anche lui aveva le stesse visioni. C'era come un canale aperto tra loro, una corrente subacquea, impercettibile ma potente. Qualcosa che faceva viaggiare le immagini attraverso il pianeta, qualcosa che li teneva uniti. Come era riuscito a far arrivare la lettera fin lì, sulle montagne? Ripensò a quando Odino le aveva detto di leggere quella lettera. Sembrava un'altra vita. Eppure era sempre la sua. C'era qualcosa in quella busta che l'aveva convinta a non aprirla. Se l'avesse fatto, Non sarebbe stata lì con la vita di Raider tra le mani. Staccò gli occhi dal fucile e sollevò la canna verso l'alto, cercando di deglutire le lacrime. Cerca un rifugio e aspetta. «Porca vacca!» disse. Si guardò attorno. Il bosco era proprio dietro di lei. Poteva dar retta a Odino, mollare tutto. Poteva tornare a casa. Via Nosadella 27. A ricucire le ferite. Non era mai stato così semplice. Invece sentì qualcuno urlare. Si rimise in posizione di tiro. Raider era nella vasca, sembrava immobile, immerso nella musica monolitica di Wagner. Ma quando spostò il cannocchiale sull'aia, vide le SS spingere i civili contro il muro della rimessa, allineandoli per la fucilazione. 7 persone. Contò il numero dei soldati. Oltre ai 6 del plotone d'esecuzione doveva aggiungere la sentinella sul granaio, il giovane ladro, il graduato grosso e poi Raider, in tutto 12 tedeschi. «Cazzo!» imprecò. «Cazzo, cazzo, cazzo!» Considerò 3 possibilità. Lasciare tutto e a ognuno il proprio destino. Colpire Raider e scappare, oppure intervenire per cercare di salvare quelle persone. Impugnò il Mosin-Nagant e inquadrò Raider. «Maledetto bastardo, figlio di puttana», disse. Non avrebbe sbagliato neanche se avesse dovuto sparare a occhi chiusi. Aspettò ancora qualche istante. Poi spostò il fucile verso destra, mirò al soldato sul granaio e tirò il grilletto. Lo colpì sul lato sinistro della testa, facendo precipitare il corpo oltre il parapetto. Volò 4 metri più in basso e atterrò con un tonfo sordo. Lasciò il fucile sull'erba, armò la pistola, prese qualche caricatore e la granata e iniziò a correre verso valle. Il paesaggio si dissolveva attorno a lei, mentre al centro del campo visivo i tedeschi si guardavano tra loro senza capire. Non l'avevano ancora vista. Doveva sfruttare quel vantaggio finché poteva. Scartò a sinistra, restando coperta dal casolare, arrivò contro il muro dell'edificio e aspettò. I tedeschi si stavano muovendo nell'aia, urlando tra loro ordini incomprensibili. Quanto odiava quella lingua! Un suono fatto di spigoli, burroni! Estrasse dalla tasca la granata, si fece coraggio e la lanciò verso il granaio. Il boato fu devastante, le montagne lo riconsegnarono amplificato decine di volte. Crollò il lato destro dell'edificio e subito si alzò un polverone scuro. Lo sfruttò senza pensarci troppo, uscì allo scoperto e non appena ebbe una linea di fuoco sicura, sparò. Doveva mirare al petto per cercare di fare il danno maggiore possibile. Non aveva tempo per essere più accurata. Colpì 2 soldati, li vide cadere, anche se non fu certa che fossero morti. Approfittò della nuvola di polvere e si acquattò tra le macerie. I soldati correvano senza una meta precisa. I più cercavano riparo dietro gli automezzi, ma c'era chi non si era reso conto di ciò che stava accadendo. Si concentrò sul graduato. Non era scappato, non aveva cercato rifugio. Lo vide girarsi verso i civili, estrarre la pistola e sparare. Uno dei ragazzi cadde a terra. «Bastardo!» imprecò. Prese la mira e fece fuoco, colpendolo alla schiena. A quel punto i civili iniziarono a scappare. Qualcuno si riparò nella rimessa, altri la girarono, si nascosero nel bosco. Coprì la loro fuga sparando tra le macchine, colpendo ruote e finestrini. Girò sul retro del granaio e si ritrovò dall'altra parte. C'erano 3 soldati, riparati dietro una camionetta proprio di fronte a lei. Stavano guardando dalla parte opposta. Fece il controllo dei proiettili, cambiò caricatore e sparò 3 colpi, mandandoli tutti a segno. Partì una raffica. Vide sbuffi di polvere e terra alzarsi lì accanto. Quando si sporse per capirne la direzione, fu colpita la gamba destra. Il proiettile la raggiunse facendola rotolare sulla ghiaia. D'istinto cercò riparo dietro un ammasso di paglia e lì rimase per qualche istante. Non era la prima ferita che subiva. Aveva imparato a controllare il dolore. Sparavano con una certa precisione. I proiettili attraversarono il fieno colpendo la terra lì vicino. Strisciò sulla pancia e in qualche modo raggiunse la sentinella caduta dal granaio. Gli slacciò la giberna, se la legò alla vita. Era troppo larga per lei, così fece un nodo all'altezza della fibbia, entrò nella stalla, si guardò la coscia. Il proiettile era entrato nella parte interna ed era uscito dal lato opposto, aprendo una voragine. Non aveva colpito un'arteria perché non usciva molto sangue, però sentiva la gamba cedere. Slacciò il fazzoletto che aveva al collo, quello che teneva legato al polso. Gli annodò per fare un laccio abbastanza lungo e lo strinse a monte della ferita. Cercò di mantenere il controllo della situazione, ma non fu facile. Si concentrò sul lato positivo della faccenda. Quasi tutti i civili erano scappati e se avesse resistito ancora per qualche minuto avrebbe dato loro la possibilità di mettersi in salvo. Anche se ferita, non poteva fermarsi adesso. Si guardò attorno cercando di orientarsi nella penombra, ricordò la botola usata per raggiungere il granaio insieme ad Anita, Prunaro di sopra, e cercò in tutti gli angoli del soffitto. Alla fine vide una scala di ferro salire al piano superiore e senza pensarci troppo si arrampicò. Sbucò nel granaio e attraversò la stanza con la paglia che gli arrivava fino all'inguine. Quando giunse nella parte con la loggia, vide il fucile che la sentinella teneva appoggiato al parapetto. Un Mauser Carabiner 98K. Un buon fucile. Si chinò, prese l'arma, controllò la carica, staccò dalla cintura un caricatore nuovo e lo inserì. Poi fece scattare la leva cercando di non far rumore. I tre soldati rimasti erano nascosti dietro una Mercedes e stavano guardando la montagna di fieno. Non l'avevano vista entrare nella stalla. Non avevano idea che si trovasse nel granaio, tantomeno che li stava tenendo sotto tiro. Colpì per primo quello con il fucile. Quando gli altri due videro il camerata volare all'indietro, si buttarono a terra accanto alla macchina. Sparò a quello sulla destra, colpendolo alla schiena, e poi a quello a sinistra, mancandolo. L'arma era più lenta del carcano e un po' più pesante. Aspettò la mossa del soldato. Lo colpì quando alzò la testa. Chiuse gli occhi, in attesa che il rimbombo cessasse, la schiena appoggiata al parapetto. Il rumore della guerra si affievolì e alla fine restò solo il fruscio del bosco. Strinse la gamba con le mani, pulsava. Aveva l'impressione di avere due cuori in corpo, uno che spingeva il sangue verso l'alto, l'altro verso il basso. Non poteva credere di avercela fatta. Fece quattro conti e si convinse che fosse rimasto solo Reder. Perciò decise di abbandonare il fucile. Ricaricò la pistola e attraversò il granaio seguendo il percorso a ritroso. Vide il suo sangue sulla paglia, ma cercò di non pensarci. Quando arrivò alla scala, Pioli si fece coraggio e scese. Fuori tutto era immobile e dei civili non c'era traccia. Voleva restare al coperto il più possibile, quindi passò dal retro dell'edificio. Appena raggiunse il lato della montagna, corse verso l'ingresso della casa. Vide Reder, di spalle, fermo davanti alla porta, proprio dietro l'angolo. Aveva solo un asciugamano legato attorno alla vita e un paio di stivali di cuoio nero. Teneva la pistola in mano puntata verso il basso, lungo la gamba. Non l'aveva sentita arrivare. «Girati!» urlò lei. Reder ubbidì. Era completamente glabro, aveva un fisico asciutto. Il moncherino sembrava il corno spezzato di un cervo. Guardò la pistola e fece un cenno con la testa. Lui esitò, ma alla fine lasciò cadere a terra l'arma. «Dimmi il tuo nome!» gli ordinò. «Maggiore Walter Reder, 16 SS, Panzergrenadier Division, Reichsführer SS». Parlò con voce severa e occhi impassibili. Per lei era il volto della guerra. Era arrivata in fondo anche a quella missione. Non se l'era immaginata così, ma tant'è. Una leggera pressione del dito sul grilletto e il discorso sarebbe stato chiuso. Sentì la gamba cedere. Si fece forza, la piantò a terra con violenza, poi impugnò la Walther P38 con entrambe le mani e mirò alla fronte di Reder. Ma in quel momento capì. I conti non tornavano. C'era qualcosa di stonato. Gli occhi di Reder si spostarono sulla sinistra, poi ancora su di lei. Cambiò espressione. Allargò le labbra in un sorriso e abbassò le braccia. Elena si voltò e lo vide. Il ragazzino timido e ladro. Certo. Come poteva essersi dimenticata di lui? Era lì a 5 metri, con il fucile puntato. Appena si guardarono, il ragazzo fece 2 passi di lato mettendo Reder fuori dalla linea di tiro. Poi, con lo sguardo, le ordinò di buttare a terra la pistola. Senza lasciare l'arma, Elena si inginocchiò e chiuse gli occhi. Odino era in piedi sul ponte di una nave. Indossava una camicia troppo grande e un paio di bretelle nere. Si teneva forte a un parapetto con entrambe le mani e la guardava con i suoi occhi grigi. Elena sentì il profumo del mare. Non l'aveva mai visto il mare. Eppure non aveva dubbi. Era un odore di sale e di vento. un odore lontano. La linea dell'orizzonte era così sottile che sembrava non esistere. Quando riaprì gli occhi, Raider non c'era più. Aveva raggiunto il ragazzo e gli aveva strappato il fucile dalle mani appoggiandolo all'altezza del fianco con il braccio destro. Lo guardò in viso. Il sorriso si era trasformato in un orrendo ghigno. Carezza e la mitraglia. L'ultimo a leggere è Francesco Ciberone Apuzzo. "1946, giovedì, ore 12. Il giorno in cui tornò, si sedette al tavolo in cucina e ascoltò le parole di Albertina. Non sarei sopravvissuta un mese di più. Quando sono arrivati i russi avevo la febbre molto alta ed ero sicura di non farcela. Quando sono arrivati?" chiese Odino. "Gennaio 1945, non ho molti ricordi. Non so neanche dov'è Auschwitz." "In Polonia." "Ah sì? Pensavo fosse in Germania." "No, è in Polonia." Il giorno in cui tornò, Odino appoggiò la mano su quella di Albertina e la strinse delicatamente. Era una mano debole, con la pelle tesa sulle ossa sottili. Una delicata trama di vene si intravedeva appena. Dava la sensazione che, sotto traccia, l'anima scorresse a stento. Nessuno dei due ebbe molte parole da spendere. La vita sfuggiva a ogni presa. "Non ci hanno portato a casa subito", continuò la ragazza. "Abbiamo fatto delle tappe, chissà dove. Quando sono arrivata mi hanno trasferita in ospedale. Appena mi sono rimessa ho iniziato a cercarla. Mi ricordavo del tizio con cui faceva azioni antifasciste, ho cominciato da lui." "Come si chiamava?" "Oreste Sasdelli, nome da battaglia Silvano. Non l'ho mai conosciuto. Eri già partito, comunque è sopravvissuto, adesso guida i tram." "E la sua famiglia? Sua madre?" Albertina abbassò lo sguardo scuotendo la testa. Poi disse: "Quando è arrivata la tua lettera l'ho portata a Silvano, mi ha detto che ci avrebbe pensato lui." "Credi che l'abbia ricevuta?" domandò. La ragazza non rispose. Aspettò qualche momento, poi si alzò e uscì dalla stanza. Odino appoggiò la schiena alla sedia e si guardò attorno. L'appartamento sembrava così silenzioso. C'era qualcosa che sottraeva vita a quella cucina, anche se non avrebbe mai saputo dire cosa. Albertina rientrò e si sedette accanto a lui. In silenzio allungò una mano stretta a pugno, la sollevò e poi la aprì. La scheggia di legno cadde sul tavolo senza far rumore, fermandosi proprio al centro. La guardarono come se avessero davanti un tesoro. Poi Odino la prese e la strinse tra due dita. Solo dopo guardò Albertina in viso, chiedendo spiegazioni. "Nel luglio 1945, un anno fa, un uomo si è presentato a quella porta e mi ha dato la tua lettera, sporca di sangue. Era vestito di tutto punto e quando io ho aperto si è tolto il cappello. Aveva l'aspetto di un funzionario o di un insegnante, però aveva il viso sciupato e la pelle che sembrava terra. Mi ha detto che l'aveva in tasca quando è stata colpita. È stato lui a recuperare il corpo. È andato a cercarla perché non è mai tornata al loro campo base. L'ha trovata morta nell'aia di un casolare, da qualche parte sulle montagne. L'hanno sepolta." "Ferma lì!" la interruppe Odino alzando una mano. Albertina lo guardò sorpresa, poi chiese: "Davvero? Davvero?" rispose lui. "Va bene, Odino, come vuoi. Quando ha trovato la lettera, quell'uomo ha fatto il giro inverso. Prima ha cercato Silvano e poi ha trovato me. Era un partigiano? Sì, uno della sua brigata. Se n'è andato in fretta, non mi ha detto il nome. Cosa stava facendo quando è morta? Chiese. Avrebbe voluto pronunciare il suo nome, ma non ci riuscì. Veramente non ho chiesto, rispose Albertina. E la lettera? È di là, vorrei tenerla io se per te va bene. Ci pensò su, il tempo giusto, poi disse, nessun problema. Sai, Odino, riprese la ragazza, ho pensato spesso a quella lettera, ma come abbia fatto ad arrivare fino a casa mia, per esempio, con la guerra e tutto. Ma quando è tornata qui, aperta, ho capito, c'era un filo che vi univa, è una cosa difficile da spiegare. Credo che capiti molto raramente, un legame così stretto e forte. Davate l'impressione di vivere in un mondo diverso. Negli anni mi sono chiesta che vita vedevate voi due, quando stavate assieme, perché non sembrava la vita di tutti. Quel messaggio doveva arrivare, ma in un modo o nell'altro è arrivato. Pare che non sia servito, però. È così, anche questo non riesco a spiegarmelo. Odino tenne la scheggia sul palmo della mano per qualche istante. Poi strinse il pugno. Non aveva altro da dire. Beve un sorso d'acqua dal bicchiere che aveva davanti e si alzò, avviandosi verso la porta. «Prima di andare, quell'uomo mi ha lasciato un messaggio per l'autore della lettera», disse Albertina. «Parlò con urgenza, come per impedire al ragazzo di uscire. Ha detto che ha combattuto fino alla fine, con valore, che è stata la sua più grande guerriera. Così ha detto, la sua più grande guerriera». Non so se questo cambia qualcosa. Odino restò immobile, lì, sulla soglia, senza nessuna espressione in viso. Si leggeva solo un velo di sofferenza in fondo agli occhi. Era come se le cose gli scivolassero addosso, ma scavando profondi solchi nella pelle. «Cosa farai adesso?» chiese Albertina. Lui si girò e la guardò, cercando di sorridere. Il giorno in cui tornò, il parco era diverso. Erano passati 7 anni e nel frattempo c'era stata una guerra. Camminò costeggiando il laghetto dove prima c'erano le stalle, poi si avviò verso il grande prato. C'erano persone che camminavano in ordine sparso, alcune sole, altre a coppie o in piccoli gruppi. In uno slargo si era fermato un vecchio con il carretto dei gelati e 5 bambini lo guardavano speranzosi. Erano tutti scalzi, tranne uno. Arrivò al leccio e si fermò per guardarlo. Era un albero grande ormai. In quella stagione la chioma rotonda era di un verde intenso e le foglie frusciavano nel cielo azzurro. C'era una piccola ferita nella corteccia, alla sua destra. La sfiorò con 2 dita, sentendone la profondità. Era antica, perché i bordi erano lisci e il fondo scuro e secco. Prese la scheggia e la incastrò nel taglio, spingendo forte. Poi raggiunse il luogo esatto dove avevano trascorso la notte. Riconobbe il parco dietro il leccio, gli abeti sullo sfondo, la città oltre il verde. Incrociò le gambe e si sedette. Sentì l'erba fresca sotto le mani e in quel momento un vento caldo si alzò da ovest, portando un forte odore di ragù. Il giorno in cui tornò percepì la velocità. Stavano correndo in bicicletta e lui teneva Elena in equilibrio con le braccia, mentre le mani stringevano forte il manubrio. Poteva sentire le sue grida di gioia e il profumo dei suoi capelli. Il sole era così acceso da far sembrare la vita un gioco. Il giorno in cui tornò era il 25 luglio 1946 e non aveva niente. Chiuse gli occhi in cerca di buio, ma poi li riaprì e restò in attesa. Tutte le genti passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno non mi diranno che bel fior. Thank you. questo è il fiore del partigiano. O vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Maratona di lettura su Radio Virus. La carezza e la mitraglia. Romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. Agenzia X, Milano, aprile 2020. Il podcast sarà scaricabile gratuitamente sul sito di Agenzia X e di Radio Virus da lunedì 27 aprile. L'ebook è disponibile già da ora in tutte le librerie online. Il romanzo cartaceo sarà disponibile nelle librerie dal 15 maggio. Hanno contribuito al progetto In Ordine Sparso: Andrea Cegna, Anna Maria Grandi, Chiara Serpicanaro, Clara Sistilli, Cristina Latessa, Daniela Cotti, Dan Autistici, Emilio Ricciardi, Elisa Petrolini, Francesca Grandi, Francesco Ciberone Apuzzo, Ginevra Morali, Yvonne Capece, Joy Kicks, Licia Campagna, Marco Filopat, Marco Gollini, Mark Tibaldi, Maria Chiara Piccolo, Massimiliano Feltre, Massimiliano Gollini, Nicole Vighi, Milin Serpicanaro, Mirko Nonnato, Nicola Del Corno, Paolo Cerruto, Paoletta Nevrosi Mezza, Sara Nanni, Saverio Peschechera, Silvia Gallerano, Stefano Toffanin, Valentina Serpicanaro, Valerio Canè. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate